Cagliari. Stavano due drink e le chiamavo con repeat. Più che una rubrica avevo una playlist. Le pompavo in discoteca e in macchina dopo i live. Le dimenticavo dopo un mese come Gangnam Style. Ognuna mi illudevo fosse il top. Ma nada, pensavo fosse una gran bella scop. Scoperta, la credevo indipendente ma era diventata pop. E i DJ se la passavano tutti nella console. T'ho incontrata e mi sono sentito scemo. Io ascoltavo Dance, tu eri un pezzo di John Lennon. Da allora sono in fissa e me ne frego. Di quelle che appena mi vedono aprono le label. Tu sei un disco di diamante che non è ancora uscito, ma è già il mio preferito. Non ti passerà. Lo ritrovo su YouTube. Ma ti guardo così tanto che hai fatto milioni di views. Ho fatto mille canzoni, ho fatto mille film. Per accorgermi che solamente tu sei la mia sei la mia. Fino alla terza età come una fan dei Pooh. E laddove c'era l'erba adesso ci sei tu. A correggere se sbaglio come l'auto true. Tu parlavi americano, io babbo adottavo. Le tue tette terminologie però non le afferravo. Te delle italiane ne avevo le tasche piene. Ma ammazzavo di sesse, sessioni d'inglese. Ti sarò fedele come i fan dell'heavy metal. Le altre portano una maschera come mischeta. Tutto uguali come sosia d'Elvis a Las Vegas. Sei così una hit che non ti veste di NG. Ma da cage pietra. Sei più grande spettacolo sopra il mio cuscino. Che è già tutto esaurito. Non ti passerà mio. Non ti trovo su YouTube. Ma ti guardo così tanto che hai fatto milioni di views. E ho fatto mille canzoni, ho fatto mille feat. Per accorgermi che solamente tu sei la mia. Non siamo il pezzo del momento, siamo un evergreen. Tutta notte che facciamo session come Marra ed Elodie. Non siamo Benja Tede, ma tu dimmi dove e quando. Vino, Salentino e Mambo, Ostia Lido, fare su e giù sul mio jumbo. Una coppia che funziona come Simon e Garfunkel. Non sei donna d'un estate, tu sei la mia donna summer. Hai scelto me, non questi coi denti da latte. Che durano poco come il singolo di un trapper. Tu piaci anche a mia mamma come il valzer. Non sei parte di un genere, sei un genere a parte. T'ascolto la mattina e pure quando faccio after. Sei solo tormentone che non m'ha rotto le palle. E con te faccio un concerto a casa tutte le sere. E applaude tutto il quartiere. Non ti passa la radio, non ti trovo su YouTube. Ma ti guardo così tanto che hai fatto milioni di views. E ho fatto mille canzoni, ho fatto mille feat. Per accorgermi che solamente tu sei la mia vita.